cancellar si non potrò il pensier di poter palpitar con lei d'amor. Può sopir il martir che m'affanna e stracia il cor, e stracia il cor. Ma pari tutto amare il mio sguardo gli incontro bella sì che il mio cor ansioso a lei volò.